dal nome. Lo sai, non sono nessuno, ma sono già qualcuno per mandarti a fare in culo. Non puoi fottere con me, non puoi essere me, non puoi avere il mio flow. Accusati ste barre, ho incominciato a fare il rap all'età di 16 anni. Tu lo fai da lunedì, già vuoi stringere contanti. Sai qual è la differenza tra me e te? Mentre tu lo fai per le views e lo faccio col cuore. Yes, sai, sai che sfonchi in ta live, in ta scena non ta vega. Ma tu cazzo stai da me, lo sai, sei molto distante. Si fosse Antonio Creto, se fosse meglio cantante. Gobbo beat, sai cazzo un po' nei crani. Gangman, mezzo artista, redline. Sta roba t'imbriaca, tipo pine craniana. Sono go bad boy, cabena rastriana. Sei solo ascoltare dire che figata sulla via, rimboccati le maniche, stringi le natiche, perché qualcuno vorrà sempre mettertelo in culo. Ma dove cazzo vai? Che cazzo fai? Stai sfidando un flow in stile Muay Thai. Omicidio sul beat al ritmo del boom boom cha. Pagliaccio che rappa sopra il cha cha cha. Non mi caso troppo in giro, bro. Le mie metriche ti fanno girare come uno yo-yo attaccato col cordino al mio dito medio. Io vivo di rap mentre tu no. Gobbo beat, sei cazzo un po' nei crani.